Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Barcellona, una delle città più affascinanti del Mediterraneo. A solo un centinaio di chilometri dal confine francese, la capitale della Catalogna incanta ogni visitatore con i suoi meravigliosi colori e i suoi profumi, esaltati dal sole e dal mare. Barcellona è una città di contrasti. Da un lato le architetture del gotico catalano, dall'altra il modernismo di Gaudì. Da un lato la tradizione dei quartieri dei pescatori, dall'altra l'efficienza delle nuove infrastrutture super tecnologiche sorte all'inizio degli anni 90 con le Olimpiadi. E poi las Ramblas, i viali brulicanti di vita che tagliano il centro della città, che danno la misura di una città instancabile ed eccitante. Se si volesse stilare un elenco dei più prestigiosi monumenti della città, questo dovrebbe necessariamente includere il leggendario Camp Nou, il gigantesco e imponente stadio del Barcellona Calcio. Il Camp Nou appartiene alla categoria degli stadi dedicati esclusivamente al calcio. Niente pista di atletica leggera, per intenderci, ad avvolgere il campo. Un tempio del pallone, quindi, inaugurato il 24 settembre 1956 con una amichevole tra il Barcellona e il Legia Varsava, finita 4-2 per i catalani. Il Camp Nou può contenere 98.000 spettatori. Il tifo catalano è particolarmente caldo, folcloristico e anche colorato, per cui quei 100.000 spettatori visti dal campo fanno davvero impressione. Lo conferma Johan Cruyff, uno che del Barcellona è stato un idolo e che ha visto quello stadio ribollire di gioia per lui. Quando il Camp Nou è gremito di gente, l'ingresso in campo è un momento davvero impressionante per noi giocatori. Per qualche minuto mi ricordo che le prime volte ero come paralizzato. Poi, una volta che ti abitui, per i giocatori del Barça diventa un'energia incredibile, come fosse un uomo in più in campo. L'effetto principale, però, credo sia il timore che quel muro umano incute sugli avversari. Le parole di Cruyff trovano conferma nell'impressione riportata dall'inglese Frank Lampard, fuoriclasse del Chelsea, che più volte ha calcato il prato del Camp Nou senza mai brillare. Giocare al Camp Nou è veramente difficile. L'impressione che fanno quelle 100.000 persone così vicine al campo, il rumore assordante, sono cose che nei primi minuti della partita ti impediscono letteralmente di giocare. Ti fanno tremare le gambe. La storia che andiamo a raccontarvi oggi ha come palcoscenico proprio il mitico Camp Nou e due dei giocatori più importanti che vi abbiano messo piede. Il Barcellona Calcio è uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo. Le sue radici sono antichissime. Infatti, il Football Club Barcelona viene fondato il 29 novembre 1899 da un gruppo di calciatori svizzeri e spagnoli guidati da Johan Gamper. Da subito, la maglia blu e rossa, blaugrana, della squadra è diventata il simbolo dell'orgoglio catalano nel mondo. Il Barcellona, a partire dagli anni 30, ha dato vita a una rivalità profondissima con il Real Madrid, la squadra della capitale, simbolo dello Stato spagnolo verso il quale spesso gli indipendentisti catalani hanno mostrato insofferenza. Nel corso dei decenni, i tifosi del Barcellona hanno di volta in volta ammirato grandissimi campioni, incoronati re del Camp Nou. Molti di questi campioni sono approdati al Barcellona da campionati stranieri. Ladislao Kubala, Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldo, per citare qualche nome. Altri sono arrivati dalla cantera, il settore giovanile particolarmente vivo e florido. Tra questi, una vera e propria leggenda del Barcellona è sicuramente Carles Reixach, personaggio di oggi. Reixach è stato uno degli attaccanti spagnoli più forti degli anni 70. Per i tifosi del Barcellona è una bandiera, una delle ultime di un calcio romantico che non c'è più. Il suo nome, infatti, è stato legato alla maglia blaugrana per tutta la vita, per oltre 44 anni, in una storia di amore sportivo emozionante e vibrante. Sono arrivato al Barcellona nelle giovanili, a 12 anni. Provenivo da Pedralbes, una cittadina nella periferia di Barcellona. E il salto nella grande città, per un ragazzino di 12 anni, qual ero, è stato davvero incredibile. Ci ho messo un po' per abituarmi. È nato il 13 gennaio del 1947 nel barrio di Pedralbes, vicino a Barcellona. La sua è una famiglia di origini modeste. I genitori lavorano entrambi come impiegati in città. Carles inizia a giocare a pallone fin da molto piccolo e nel 1959 un provino fortunato lo porta a entrare nella cantera del Barcellona. Blaugrana, Reixac rimane 5 anni. Quando ha appena compiuto 18 anni, il 25 aprile del 1965, esordisce in prima squadra. L'allenatore Salvador Artigas lo schiera in un match valido per la Coppa del Re contro il Racing Santander. Finisce 4-0 per il Barça e Reixac, ruolo attaccante, segna il quarto gol. Trascorsi a farsi le ossa nel Condal, di fatto la squadra di riserve del Barcellona, militante in seconda divisione, Reixac viene inserito in pianta stabile in prima squadra. Mi sono aggregato alla prima squadra nel 1967 e per 14 lunghi anni indimenticabili. Ci sono rimasto. L'esordio nella Liga avviene il 10 di settembre del 1967 a 20 anni, nella prima giornata della stagione 67-68. Il Barcellona gioca e perde con il Real Saragossa 3-2. Reixac segna il primo gol. Spagnolo, nonostante le numerose offerte anche dall'estero, non si sposterà mai da Barcellona. Dal 1967 al 1981 disputerà 328 partite, realizzando 81 gol, diventando un vero e proprio idolo per i tifosi del Camp Nou. Felice e ricco di successi per Reixac al Barcellona è quello che va dal 1973 al 1978, cioè gli anni in cui può giocare in attacco in coppia con Johan Cruyff. Johan è stato un giocatore incredibile, straordinario, uno dei più forti che io abbia mai visto. Giocare insieme a lui era facilissimo, perché possedevo una classe cristallina e un'intelligenza calcistica lucidissima. Peccato che si sia ritirato così presto dal calcio e sia andato via così in fretta da Barcellona. Probabilmente è spinto dalla moglie. Cruyff formano la coppia d'attacco del Barcellona per 5 stagioni, durante le quali i Blaugrana portano a casa solo una Coppa di Spagna e un campionato spagnolo. Vincemmo poco rispetto alle nostre possibilità, arrivando spesso ad un passo da vittorie più importanti. Ci mancava qualcosa, forse un po' di personalità, un po' di cattiveria. Sì, successi, il Barça gioca sempre un calcio spettacolare e i tifosi vanno in delirio per il tandem d'attacco. Reixac, grazie agli assist di Cruyff, vince per 2 volte il titolo di capocannoniere e raggiunge la nazionale, con cui disputa lo sfortunato mondiale del 1978, chiusosi con una cocente eliminazione al primo turno. Nel 1981, Camp Nou. Si gioca un amichevole tra il Barcellona e la nazionale argentina. È una partita commemorativa, si celebra proprio l'addio al calcio di Carles Reixac. Lo stadio è gremito in ogni ordine di posto. I tifosi commossi vedono ammainarsi una bandiera. Il rapporto tra Reixac e il Barcellona non si chiude affatto qui. Il capitolo che ci interessa da vicino inizia proprio ora, quando l'attaccante che per un decennio ha retto il peso dell'attacco del Barcellona appende le scarpe al chiodo e inizia a vivere il calcio da un'altra prospettiva. Diventa infatti direttore tecnico della squadra catalana e poi supervisore del settore giovanile. In pratica va a caccia di nuovi talenti. carriera di Rechac non ha, per la verità, un andamento esaltante, sempre relegato a un ruolo di comprimario. Nel 1987 diventa allenatore in seconda di Luis Aragonés, subentrandogli per poche partite a fine stagione, quando questi viene esonerato. Sulla panchina del Barcellona siede Johan Cruyff. La sontuosa campagna acquisti porta al Barcellona l'etichetta del Dream Team. Rechac è il secondo di Cruyff e prende in mano la squadra tra il 90 e il 91, quando l'allenatore olandese deve sottoporsi a un intervento al cuore. Sulla panchina del Barcellona, Rechac siede una terza volta nel 1996, quando Cruyff, dopo 8 anni di successi, viene esonerato. Rechac gli subentra e questo causa la rottura dei rapporti con Cruyff. Poi, a fine stagione, arriva Bobby Robson. L'allenatore inglese vuole come assistente un giovane portoghese, José Mourinho, e così per Rechac non c'è più spazio. La dirigenza gli affida il ruolo di scout a tempo pieno. Senza saperlo, gli affida le chiavi per uno straordinario incrocio di destini. Il motivatore è quello di girare il mondo alla ricerca di nuovi talenti. Un buon talent scout, tuttavia, deve anche saper gestire molto bene le relazioni professionali e umane, sapere intessere rapporti saldi con uomini chiave di club di tutto il mondo, in modo tale da essere sempre aggiornato su possibili astri nascenti e sempre in anticipo rispetto ai concorrenti. Rechac lavora principalmente con il Sud America, in particolare con l'Argentina. Qui stringe un rapporto di particolare fiducia con un imprenditore di Rosario, Eduardo José López, presidente del Newell's Old Boys, una delle squadre più forti del campionato argentino. López lo informa tempestivamente sui giocatori più forti della sua squadra, ma anche di quelle avversarie nella corsa al titolo. Il telefono è uno degli strumenti di lavoro principali per un talent scout, soprattutto per chi è alla ricerca del colpo della vita. Carles Rechac nel 1999 non ha ancora portato grandi campioni al Barça, ma un giorno riceve una telefonata destinata a cambiargli la vita. Rechac risponde: dall'altra parte c'è proprio Eduardo José López, il presidente dei Newell's Old Boys. Dopo i convenevoli, López gli dice semplicemente: vieni qui e in fretta. In uno dei team giovanili della mia squadra c'è un ragazzino incredibile, vieni. Rechac chiede secco e professionale: com'è? La risposta? Piccolo, ma fortissimo. Io cercavo giocatori adatti al calcio moderno, forti fisicamente, atletici. E quindi cercavo dei ragazzi che potessero essere formati e costruiti, ma che avessero già una struttura fisica di un certo tipo. Di questo giovanotto, invece, mi fu detto che era minuscolo, piccolissimo, più piccolo dei ragazzi della sua età. Beh, mi sembrava inutile fare un viaggio oltreoceano per vedere un ragazzino così piccolo. López però insiste, fino a dire a Rechac: vieni, prendilo come un favore personale. Più per cortesia verso un dirigente che era stato molto utile in passato al Barcellona che per reale interesse, Rechac prende un aereo e vola in Argentina. Giunto nella città di Rosario, Rechac, probabilmente a causa dello scetticismo verso quell'operazione in cui sostanzialmente non credeva, se la prende comoda. E quando sale sul taxi diretto al campo dove la squadra giovanile del Newell giocherà la sua partita, è in netto ritardo. Così, quando varca la soglia della tribuna, la partita è già iniziata da un po'. Rechac è circondato soprattutto dai genitori dei ragazzini in campo, che fanno un tifo indemoniato. Prestando poca attenzione al campo, Rechac cerca il presidente López, lo trova, i due si salutano. Poi però lo sguardo distratto dell'osservatore del Barcellona cade sul campo di gioco. Ricordo che quasi per caso iniziai a vedere la partita. Beh, non riuscì nemmeno a sedermi. Rimasi in piedi, pietrificato per 5 minuti, senza proferire parola. Stavo assistendo ad uno spettacolo incredibile. Lo sguardo di Rechac viene subito catturato da un ragazzino che gioca per la squadra di casa. Fisicamente è molto più piccolo dei suoi compagni e dei suoi avversari, tanto da sembrare anche più piccolo di età. I pantaloncini arrivano ben sotto al ginocchio, la mezza manica della maglietta arriva al polso, il pallone sembra gigantesco. Eppure quando prende palla, nessuno riesce a fermarlo, gli avversari sembrano dei birilli, non lo vedono nemmeno. In quei 5 minuti, il ragazzino segna 2 gol incredibili. Rechac si gira scioccato verso López. È lui, gli dice quest'ultimo, è per lui che ti ho chiamato. Ma quanti anni ha? Chiede Rechac. 12, come tutti gli altri. Solo che, gli spiega López, ha un grave problema ormonale che gli limita la crescita. In altre parole, è nano. E se non si cura, rischia di rimanere nano per il resto della vita. Come si chiama? Chiede Reshack. Qui tutti lo chiamano La Pulce, ma il suo nome è Lionel Messi. Lionel Messi. Due mani fredde nelle tue, bianche colombe dell'addio. Che giorno triste questo mio. Oggi tutti liberi di me. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati raccontiamo la storia di Carles Reshack, campione del Barcellona anni 70 e poi dirigente senza successo della squadra blaugrana, e di Lionel Messi, scoperto da Reshack nel 99 ma affetto da un grave problema all'ormone della crescita, un problema che potrebbe costringerlo a una forma di nanismo per il resto della vita. Nell'inverno del 1999, Reshack, chiamato dal presidente del Newell's Old Boys, squadra argentina di Rosario, assiste all'incredibile esibizione di un Messi ancora dodicenne in una delle compagini giovanili del team argentino. Reshack rimane esterrefatto per il talento di quel ragazzino così piccolo. Dire che rimasi impressionato non rende l'idea. Ero impietrito. Quel ragazzo era il miglior talento che io avessi mai visto su un campo da calcio. Non sapevo veramente che fare, ma capii che la prima cosa era assicurarmi che non mi sarebbe scappato. Così Reshack si fa portare dal padre. Si fa spiegare bene la situazione fisica del figlio. L'ormone della crescita è bloccato e per guarire servirebbero delle iniezioni costosissime, l'equivalente di quasi 500 euro l'una. Lui e sua moglie fatica ad arrivare a fine mese. In Argentina c'è la crisi. Presi un fazzoletto di carta e feci firmare al padre di Lionel un patto. Non avrebbe nemmeno fatto vedere quel ragazzo a nessun altro osservatore. Ero talmente scettico che non avevo con me contratti, carte intestate e quant'altro. Un fazzoletto di carta con una firma scarabocchiata. Lì non c'è solo la carriera di Lionel Messi, ma la sua speranza di una vita normale. Quali potrebbero essere, in un'Argentina squassata dalla crisi, le prospettive di vita per un ragazzo affetto da una forma di handicap fisico così pesante? Con quell'accordo un po' improvvisato, Reshack torna in Catalogna. Obiettivo? Convincere i dirigenti del Barcellona a investire su quel ragazzo, a curarlo e ad inserirlo nella cantera. La prima reazione del presidente non fu positiva. Ricordo che in maniera molto sgradevole mi disse: «Ma perché mai dovremmo acquistare dall'Argentina un nano?» Fu veramente difficile. Leo Messi è nato a Rosario, in Argentina, il 24 giugno 1987. La forma di insufficienza ormonale di cui soffre è una carenza di somatotropina, una forma molto rara di disfunzione della crescita. Il pallone è da subito la sua passione, tanto che a 5 anni entra nella squadra locale del Grandoli. Molte squadre argentine di primo piano, tra cui il River Plate, gli mettono gli occhi addosso quando è ancora un bambino. Ma la crisi dilagante nel paese sudamericano scoraggia le società ad assumersi l'onere di una cura che risulterebbe costosissima. Nonostante ciò, il padre capisce che il calcio, proprio per via della crisi, è l'unica possibilità di riscatto per il figlio. Per cui continua a cercare di procurargli i provini per squadre importanti, che possano eventualmente permettersi di pagargli le cure. Tutti però si tirano indietro quando vengono a conoscenza dei problemi di salute del figlio e del costo delle cure. Intanto il bambino cresce d'età, ma non nel fisico, accumulando ritardo rispetto ai suoi coetanei. Il massimo che il padre riesce a ottenere è un accordo con il Newell's Old Boys. Il presidente Lopez non può pagargli le cure, ma ha contatti con grandi club in Europa e si impegna a richiamare la loro attenzione sul piccolo Messi. Lopez è un uomo di parola e così Carles Reshack, osservatore del Barcellona, giunge a Rosario, riaccendendo le speranze della famiglia Messi. Reshack riesce a convincere i dirigenti del Barcellona a dare una chance a Leo Messi. 16 giorni, un provino a tempo, durante il quale Messi si deve giocare il tutto per tutto. Sono stati giorni duri per me, perché sapevo che in gioco c'era molto della mia vita. Mio padre e mia madre decisero, forse con un briciolo di incoscienza, di seguirmi in Spagna. Lasciarono il lavoro, cercarono di starmi vicino. L'inizio di quel periodo non fu proprio facile. La famiglia Messi sbarca a Barcellona. Marechac, per lavoro, deve andare per 10 giorni in Australia. Senza l'osservatore che l'aveva scoperto, Leo viene trascurato dai tecnici delle giovanili blaugrana. Praticamente il giovane talento argentino non vede mai il campo. Subentra lo sconforto e la famiglia è sul punto di tornare in Argentina. Proprio a quel punto, però, Reshak torna e impone un esame serio delle qualità tecniche del ragazzo. Viene organizzata subito una partitella. Per me fu una sorta di bis dello spettacolo cui avevo assistito in Argentina. Anche in questo caso ero in ritardo. Presi posto in tribuna e appena arrivato, Messi fece un gol incredibile in pallonetto. Mi girai verso i dirigenti del Barca e dissi sorridendo: «Posso parlare francamente? Se non lo tesseriamo, siamo dei coglioni». Al termine del match, il Barça comunica al signor Messi che suo figlio è stato preso nella cantera. Il 1 marzo 2001, Messi firma il suo primo contratto con i Blaugrana, che si impegnano a pagargli le cure necessarie. Con la gioia nel cuore, tutta la famiglia Messi si trasferisce in Spagna. Come tutto il mondo sa, sarò eternamente grato a Reshak per tutto quello che ha fatto per me. Quando ho firmato il primo contratto e il Barcellona mi ha assicurato le cure che mi servivano, mi sentivo sollevato, ero felicissimo. Ma sapevo che le sofferenze non erano certo ancora finite. Il Barcellona, infatti, ingaggia Messi perché il suo talento è assolutamente incredibile. Ma lo scetticismo circa la sua struttura fisica non accenna a diminuire. Infatti, le cure a cui Messi si dovrà sottoporre, una iniezione al giorno, potrebbero non funzionare. Ma soprattutto gli causeranno grandi disagi fisici, come nausea, debolezza, dolori ossei. Leo deve sopportare tutto questo e non mollare, perché il rischio potrebbe essere che il Barcellona lo rispedisca a casa. Di sicuro in quel periodo difficile ho imparato a soffrire, a stringere i denti. Mi è servito moltissimo per il futuro, mi ha insegnato a non mollare mai, nemmeno nei momenti di grande difficoltà. Leo, tra mille difficoltà, gioca 2 stagioni nelle squadre giovanili, riuscendo a incantare. Il suo repertorio è praticamente sconfinato, esclude solo per ovvi motivi il colpo di testa. Per il resto, palla al piede, Messi fa ciò che vuole. Mancino, veloce, rapidissimo, segna gol a grappoli. L'allenatore della prima squadra dal 2003 è l'olandese Frank Rijkaard, ex stella del Milan. Rijkaard presta grande attenzione ai talenti del settore giovanile e segue molto da vicino Leo Messi. Proprio nell'ottobre del 2003, quando il Barcellona ospita al Camp Nou il Porto per una partita di Champions League, l'allenatore olandese, a causa di una serie di infortuni che decimano la prima squadra, porta Leo per la prima volta in panchina. La cura nel frattempo ha fatto effetto. Leo rimane piccolo, ma arriva al 1,65 m. Per tutta la stagione 2003-2004, Leo non viene più convocato in prima squadra, ma l'attesa è breve. La stagione successiva, Rijkaard decide di promuoverlo a tempo pieno con i più grandi. E il 16 ottobre del 2004, quando Messi ha appena 17 anni, l'olandese lo fa esordire in campionato contro l'Espagnol. Reshak osserva soddisfatto in tribuna. Un giornalista gli si avvicina e gli chiede: «Ma non è un rischio mandare in campo un giocatore così piccolo contro difensori grandi e possenti? Non rischiano di sbriciolarlo al primo contrasto?» Reshak guarda sornione il suo interlocutore. «Ha ragione, probabilmente lo distruggerebbero», gli dice. «Ma prima devono riuscire a prenderlo». You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Destini incrociati. Il 16 ottobre del 2004. Al Camp Nou di Barcellona si gioca il derby tra il Barcellona e l'Espagnol. I Blaugrana, allenati da Frank Rijkaard, a 10 minuti dalla fine mandano in campo un giovane esordiente, Lionel Messi. il terzo più giovane calciatore a vestire la casacca blaugrana e il più giovane calciatore della Liga. Il giovane calciatore, soprannominato La Pulce, è stato portato a Barcellona da Carles Reixach, ex attaccante della squadra catalana e ora osservatore del team. Il Barcellona l'ha preso su insistenza di Reixach, nonostante Messi avesse un problema all'ormone della crescita. L'ha curato e ora lo schiera per la prima volta in prima squadra, a soli 17 anni e 3 mesi. In quella stagione il Barcellona è in attacco a giocatori fenomenali come Ronaldinho e Samuel Eto'o. Ciò nonostante, il giovanissimo Messi, con umiltà, riesce a ritagliarsi un posto da titolare accanto ai due fenomeni, fino a diventare il terzo, sotto lo sguardo fiero del suo mentore Carles Reixach. Vedere quel Barcellona giocare sembrava... sembrava fosse tutto semplicissimo. Possesso della palla rapido e preciso. E quando Messi e Ronaldinho avevano il pallone, succedeva qualcosa. Io penso questo. Lionel può essere paragonato solo a Maradona e rispetto a Diego è ancora più utile al collettivo della squadra. Maradona, per un giovane giocatore argentino come Messi, è un mito, un idolo, un sogno da inseguire. Come per milioni di suoi concittadini, anche per Messi, la grandezza di Diego è sintetizzabile da un gol. Ahí la tiene Maradona, lo marca Andó, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Il 22 giugno del 1986, Diego Armando Maradona si beve letteralmente centrocampo e difesa dell'Inghilterra e realizza il 2-0 per la sua nazionale, che poi andrà a vincere il mondiale. Per gli inglesi, un'umiliazione cocente. Il primo gol è stato realizzato di mano, il secondo con una facilità irrisoria. Maradona, nel post partita, dice di aver voluto vendicare la brutalità di quella che definisce l'aggressione inglese al popolo argentino nelle isole Falkland. Diventa così un eroe nazionale. Nel 1986 Messi non è neppure nato, ma crescendo rivede 100 e più volte le gesta di Diego, rivede forse 1000 volte quel gol incredibile. E nella sua ammirazione incommensurabile per Diego, in quel gol fissa un traguardo da raggiungere, un giorno che si fa sempre più vicino. Nel 2005 Messi fa le prove generali per la sua candidatura ufficiale alla successione di Maradona, trascinando l'Argentina alla vittoria del Mondiale Under 20, segnando 6 gol in 7 partite. L'anno successivo si guadagna la maglia di titolare accanto a Ronaldinho e a Eto'o. Il Barcellona vince dopo 15 anni la Champions League, battendo in finale l'Arsenal di Thierry Henry. Ma Leo non festeggia. La sua stagione è finita prematuramente il 7 marzo 2006, quando si lacera un muscolo della coscia destra durante il secondo tempo della gara contro il Chelsea. Chiude comunque con 6 reti in 17 partite in campionato e una rete nei 6 match giocati in Champions League. La sua reputazione come giocatore decisivo nei big match viene confermata dalle ottime prestazioni fornite nelle trasferte vittoriose contro Real Madrid e Chelsea, rispettivamente nella Liga e in Champions League, considerate le sue 2 gare migliori. Il vantaggio del Barcellona con Giuliano Belletti, l'esterno destro brasiliano di lontane origini emiliane, sfrutta il tocco dentro di Larsson, ancora una volta decisivo nelle vesti di assist man. Primo gol della carriera in maglia blaugrana per Giuliano Belletti, proprio nell'occasione più importante. Il suo destro potente non trova opposizione da parte di Almunia. La stagione 2005-2006 vede anche l'addio al Barça del mentore di Messi, Carles Reixach, che lascia dopo 44 anni di contratto con la società blaugrana. Messi non lo dimenticherà mai, dedicandogli tutti i successi che riesce a raccogliere da quel momento in poi. Il 2006-2007 è la stagione della consacrazione. Eto'o si fa male, Ronaldinho latita. Leo si infortuna nei primi mesi e al suo rientro si vede sulle spalle tutta la responsabilità del reparto offensivo del Barcellona. La tripletta nel Classico contro il Real Madrid dimostra che Leo è ormai un campione assoluto. Viene Dinho, viene Dinho. Dinho che qui ha per Messi, Messi, Messi, via, sta Messi! Il 18 aprile del 2007 è un giorno importante, importantissimo, perché si può considerare la data in cui Leo, la pulce, si getta definitivamente alle spalle le sofferenze del suo passato e sale sul trono che era stato di Maradona. Il gol del Pibe de Oro contro l'Inghilterra nel 1986, il gol più bello della storia del calcio, un gol impossibile da fare, si materializza magicamente al Camp Nou con un nuovo interprete, Leo Messi. De nuovo la recuperazione per il FC Barcelona. Xavi, Messi consigue il recorte ante Paredes, aguantando con il balón, se ha ido también de Nacho. Messi llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera. ¡Golazo de Messi! ¡Qué golazo! Cuatro jugadores del Getafe que ha dejado atrás, pero también al guardameta. Le televisioni di tutto il mondo trasmettono il gol, mentre si sprecano i paragoni con Maradona. La piccola pulce che nel cuore della città argentina di Rosario ha rischiato di rimanere intrappolato nel corpo di un bambino dà prova al mondo intero della propria grandezza. Da quel gol in avanti per Messi arriva un successo dopo l'altro. Con Guardiola in panchina, Leo porta il Barça a vincere campionato, Champions League, Coppa di Spagna, Supercoppa Europea, Mondiale per club. Leo vince il pallone d'oro. Per i tifosi di tutto il mondo, Leo è ora il più grande giocatore del pianeta, per la gioia del suo ostinato scopritore, Carles Reixach. Nel 2010 lo scrittore Roberto Saviano ha dedicato a Messi un bel racconto. A conclusione del suo racconto, Saviano istituisce un paragone simbolico che è probabilmente anche il miglior modo per descrivere la storia di Leo Messi. La storia di Lionel Messi è una storia molto bella, perché è una storia dove il talento non solo ti fa vedere che la sfortuna non esiste, che puoi farcela, e mi fa spesso pensare alla leggenda sul calabrone. Si dice, no, che il calabrone non potrebbe volare perché la massa del suo corpo è superiore alla portata delle sue piccole ali, solo che il calabrone non lo sa e per questo vola. Lionel Messi non potrebbe giocare in questo calcio tutto muscoli, potenza, forza, solo che per fortuna Messi questo non lo sa ed è per questo che è il più grande di tutti. Presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23 qui su Radio 24.